di gala, signore in decolché, discese da un romantico coupé. Oh, quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée, per ascoltar Tamagno, la Belliccioni stagno, in un vecchio palco della Scala. Che splendido stagion, che ricco cartellon, che elenco di tenori e di soprani. Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fra Diavolo, l'Ernani, Puritani, Vespri siciliani. Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet. Un sorso di Massala, due tre marron glacé. E all'uscita la fioraia della Scala offre un mazzolino di pansè. Che l'estai, bella figlia dell'amore, un bel di vedremo. E passano le stagioni, si cambia il cartellone, e quanta quanta musica alla Scala. Fedora, Lorelai, Mascagni e Zandonai. E il valzer, ecco il valzer, anche il valzer stravirò. L'americano a Parì, che Toscanini ci portò. Lui stette solo un giorno e subito in America tornò. Ma fra le novità ancora volerà la musica dei tempi più lontani. Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fra Diavolo, l'Ernani, Puritani, Vespri siciliani. Lentamente poi si pario cala, scendono le luci nel foyer. E vuota già la sala e non rimane che questo vecchio palco della vecchia Scala del gennaio del 93. E buio ormai la sala, la folla più non c'è. Resta solo il vecchio palco della Scala del gennaio del 93.